e lunedì alle 17.30 siamo in Piazza Maggiore sotto le finestre del Consiglio Comunale, che sarà nella sua udienza ordinaria, per chiedere con forza che il Bosco dei Prati di Caprara sia riconosciuto come un grande patrimonio comune per la città, che i suoi servizi ecosistemici ecologici che oggi offre vengano finalmente riconosciuti, perché finora sono stati negati, e che per fare questo quindi si cambino le previsioni urbanistiche che riguardano tutto il comparto dei Prati di Caprara est e ovest e in generale il grande piano di riqualificazione così chiamato del quadrante ovest. Perché appunto sono diversi i progetti che insistono sull'area complessiva dei Prati di Caprara. In realtà appunto ci sono tre nodi. Uno sono il CRB, che è stato il punto di partenza di questa grande trasformazione urbana ancora interrotta, poi ci sono i Prati ovest, che sono il luogo dove dovrebbe sorgere la cittadella della moda come compensazione dell'investimento sullo stadio, e i Prati est, che sono per ora semplicemente un potenziale nuovo quartiere con i 1300 alloggi, la nuova scuola, nuovi parcheggi, nuove strade, che sono però sempre nell'area ex demaniale che oggi è controllata da Invimit, che ha un obiettivo di compensare il debito pubblico statale con un investimento di fatto immobiliare. Ci sono, oltre alla manifestazione, altri versanti su cui vi state muovendo? Sì, noi vogliamo far capire alla città che il Bosco dei Prati di Caprara già oggi è non soltanto un grande patrimonio ecologico, ma anche un luogo dove si può entrare, dove si possono fare delle cose. Abbiamo iniziato con un picnic dove sono venute tantissime famiglie con i loro bambini, hanno giocato, hanno corso in mezzo al bosco lungo le strade, sono entrati ciclisti, e quindi abbiamo organizzato una specie di estate bolognese off ai Prati di Caprara, dove abbiamo appunto una gara podistica, abbiamo degli interventi di artisti, delle serate musicali, volevamo fare anche un cinema all'aperto perché c'è uno spazio particolarmente adeguato, e tantissime altre iniziative. C'è l'International Yoga Day, in cui vorremmo fare qualcosa dentro i Prati di Caprara per dimostrare che non solo è un luogo che fa bene alla salute, eppure essendo inaccessibile, ma anche un luogo che può cominciare a essere appropriato, perché il bosco secondo noi è nostro già da oggi, anche se non è di nostra proprietà dal punto di vista legale, e vorremmo che ci fosse in qualche modo consegnato. Sul versante istituzionale invece appunto c'è la questione dell'udienza conoscitiva, dell'istruttoria e appunto della sensibilizzazione dei consiglieri. Sì, noi abbiamo chiesto un'udienza conoscitiva alla Commissione Territorio e Ambiente perché ci sembrava il luogo più adeguato per informare i consiglieri comunali e gli assessori di quello che è stato anche il percorso partecipativo che abbiamo organizzato sui Prati di Caprara, dove sono intervenuti anche degli esperti che porteranno quindi le loro informazioni sul quello che è oggi il bosco e quali servizi già offre la città. E quindi questo luogo è l'occasione della Commissione, quella di informare i consiglieri comunali che vogliono dovranno eventualmente cambiare le previsioni urbanistiche nella sede deliberativa che è il Consiglio Comunale. Invece l'istruttoria pubblica che abbiamo chiesto a tutte le forze politiche è quel grande momento di consultazione cittadina che dopo oltre un anno, in cui noi leggiamo sui giornali quali sono i progetti di Saputo e della sua cordata, non è mai stata concessa alla città. Cioè non c'è mai stato un luogo autentico in cui i cittadini avessero possibilità di prendere parola per chiedere cosa sarà. Non tanto solo dei Prati di Caprara del CRB, ma di una parte di città che sarà stravolta da quella che è, da quelli che sono i progetti che forse l'amministrazione non conosce, ma che Saputo, Macaferri, Lecce e tutti i membri di questa cordata conoscono benissimo. La forza politica che dall'inizio sicuramente si è attivata nelle sue sedi è coalizione civica. Negli ultimi tempi il Movimento 5 Stelle ha iniziato un'interlocuzione anche con il comitato e ha fatto delle interrogazioni in consiglio comunale, e molto probabilmente saranno loro queste due forze politiche quelle che per prime chiederanno l'attivazione dell'istruttore, però cercando di coinvolgere tutte i gruppi consigliari. Quindi questa è una cosa che scopriremo la prossima settimana, che è anche probabile che accada. Il nostro appello però è a tutte le forze politiche, anche la richiesta dell'istruttore, la richiesta del cambiare le previsioni urbanistiche, una richiesta che abbiamo fatto a tutte le forze politiche che abbiano a cuore la salute e il futuro della città. State valutando anche possibili azioni legali? Sì, c'è un gruppo di giuristi, di esperti di diritto che sono al lavoro per valutare se ci sono degli estremi per fare esposti o altre forme di azione legale, perché in particolare anche in relazione al disboscamento dei primi 2 ettari legati alla costruzione della scuola, noi avevamo visto dei documenti nella conferenza dei servizi in cui nelle procedure proprio della bonifica bellica dovevano essere rispettati sia gli alberi di alto fusto che le matricine, e se voi andate a vedere il cantiere hanno scavato ormai oltre 1 metro di terra, non è rimasto nulla, e tabula rasa completa. Quindi ci pare che almeno, visto che abbiamo chiesto ai consiglieri comunali se questa cosa era stata fatta con cura, nessuno ci ha saputo rispondere, abbiamo abbiamo proceduto autonomamente, cerchiamo di verificare se queste cose sono fatte con cura oppure no. L'attuale disboscamento, voi dite, con la scusa della bonifica, è una testa d'ariete per arrivare poi all'urbanizzazione. Qualora riusciste a vincere, però comunque in pratica però dovrebbero essere comunque bonificati dalla verifica sugli ordigni bellici, eccetera. Allora, la bonifica ci hanno spiegato gli esperti che abbiamo chiamato per il percorso partecipativo partecipati, dipende, diciamo, ha delle procedure diverse a seconda degli usi a cui una determinata area è destinata. Se occorre costruire, naturalmente le fondamenta richiedono una bonifica in profondità, ma se l'area fosse destinata a bosco, il tipo di bonifica che sarebbe necessario sarebbe molto meno invasivo e consentirebbe di preservare quello che è il patrimonio naturale ecologico che si è costruito negli ultimi 30-40 anni e che naturalmente non prima di essere ricostruito e poi non sarà mai ricostruito, perché un parco pubblico è una cosa molto diversa da un bosco urbano, cosa che forse l'amministrazione ancora deve capire, però diciamo o fa finta di non capire. Quindi la bonifica sarebbe naturalmente commisurata al mantenimento del bosco, di una parte dei prati di Caprara come bosco spontaneo e magari di una parte dei prati di Caprara come parco attrezzato, dove naturalmente i lavori dovrebbero essere commisurati.